Tempo di Sport con Carlo Genta. Dunque, il campionato non c'è, noi sì, da oggi e per tutta la stagione. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Mi incontrano e mi chiedono: ma di che parli visto che non c'è il calcio? Del fatto che non si gioca, mi sembra un argomento abbastanza interessante. Che dite? 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Naturalmente non solo questo, sennò ci annoiamo a morte. Per fortuna non c'è la Serie A, ma il mondo dello sport ci riserva un sacco di notizie interessanti. A cominciare dai mondiali di atletica, tra un'oretta dopo il GR delle 18 tornerà qui con me Giorgio Nandelli e penso che voce più autorevole, non che commentatore più autorevole, non possiamo trovare per questo flop clamoroso, inaspettato e anche se volete inspiegabile di Usain Bolt, che si è autocondannato all'esclusione nella finale dei 100 metri poi vinti da Blake, una finale in cui c'era solo Bolt, era l'unico grande favorito, visti i forfait di Powell di recente, di Tyson Gay precedente per l'operazione subita, morale, era rimasto solo Bolt, era l'unico possibile candidato per questa vittoria, l'unico modo che aveva per perdere era quello di suicidarsi, come in effetti ha fatto con questa falsa partenza chiarissima e, ripeto, inspiegabile. Quindi la finale dei 100 metri che non ti aspetti assolutamente. Questo è uno degli argomenti di giornata. Altri argomenti di giornata sono già arrivati e arriveranno sul fronte dei motori, perché c'è stato il Gran Premio di Spa di Formula 1 ed è ripresa l'egemonia della Red Bull dopo il tentativo di restaurazione estivo da parte di Ferrari e McLaren. Oggi la Red Bull ha piazzato una doppietta che a mio parere chiude i discorsi per il titolo mondiale. Primo Vettel, secondo Webber, terzo Button, quarto Fernando Alonso sulla prima delle Ferrari, quinto Michael Schumacher che festeggiava in questo weekend i 20 anni dalla sua prima corsa, ha fatto un grande venerdì, un pessimo sabato e poi oggi una buona gara, quella del vecchio Schumi, e si è piazzato quinto, sesto Rosberg, settimo Sutil, ottavo Massa e una classifica mondiale che dice che Vettel ha in mano il titolo, 259 punti, Webber 167, Alonso 157, Button 149, poi Hamilton a 146, può gettarlo alle ortiche soltanto il tedeschino. Sentiamo un paio di commenti del muretto Ferrari prima di commentare invece noi questa corsa e aspettando ovviamente Indianapolis questa sera, dove si annuncia l'ennesimo psicodramma rossesco con Valentino Rossi che parte in crisi, nella crisi più nera dalla 14ª linea sulla griglia di partenza, e con Stoner invece che partirà dalla pole position a Indy. Ma sentiamo cosa ha detto Stefano Domenicali sulle gomme e sulla gara di oggi a Spa per quanto riguarda le Ferrari. È il nostro tallone d'Achille in queste condizioni, lo sappiamo. È chiaro che Button con la safety car ha potuto utilizzare gomme soft alla fine per attaccare, quindi questo purtroppo è stato un po' così, è andata la gara. Peccato anche per Felipe che ha avuto una foratura e quindi abbiamo dovuto ricavarlo dentro, e perché avremmo fatto dei punti, degli altri punti importanti. Domenicali così sulla gara di oggi, però il prossimo appuntamento è particolarmente sentito in casa Ferrari in questa stagione così disgraziata, perché c'è Monza e Domenicali ci sta già pensando. Sì, Monza sarà un'altra gara, condizioni diverse, sono convinto che potremo dire la nostra in maniera ancora più forte, ne sono certo, ed è per questo motivo che adesso dobbiamo tornare, cercare di lavorare al meglio su Monza, perché è un pacchetto, è una gara unica e particolare, poi lavorare sul tema che appunto in questo momento, come dicevo prima, rappresenta il nostro tallone d'Achille, con le gomme dure, con queste temperature. Mario Poltronieri, il tentativo di restaurazione già chiuso. Buongiorno Mario. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Beh, diciamo innanzitutto che questo è stato un gran premio vero per piloti veri, uno spettacolo veramente per chi è appassionato di automobilismo e non è solo tifoso, bisogna dire una gara eccezionale. E infatti, siccome è un bel circuito, probabilmente Eccleston penserà di sostituirlo con qualcuno di quei circuiti fatti dall'architetto Arnold Tilke tedesco, perché questo circuito purtroppo non guadagna abbastanza. e quindi non può pagare abbastanza Ecclestone, però finché possiamo vediamolo. Ed è un circuito dove sono venuti fuori i piloti più forti, perché la coppiata della Red Bull con Vettel davanti a Webber era quasi scontata. Diciamo comunque che si è avuto una riprova che questa è la vettura quest'anno vincente e che Vettel è bravo e anche qualche volta un po' aiutato. Ma soprattutto c'è da ricordare il terzo posto di Button, che dopo l'errore fatto nell'aver concluso bene le prove e ieri era partito tredicesimo, è riuscito ad arrivare sul podio terzo. E Schumi, su un circuito di casa, se così si può dire, dove ha vinto un sacco di volte, da 24esimo che aveva partito è arrivato quinto. In mezzo, arrancante con una macchina che avrà avuto sì dei problemi di gomma, ma che probabilmente non è ancora riuscita a interpretare la fornitura di pneumatici che sono particolarmente italiani, tra l'altro, è arrivato Alonso. Di fronte a questa situazione che cosa si può dire? Sì, a Monza noi speriamo che ci sia una bella corsa, è un circuito abbastanza favorevole, però hai ricordato anche la corsa che vedremo stasera di Valentino Rossi. Il timore è che qui si stia ripetendo un po' la situazione delle moto, cioè un pilota forte come indiscutibilmente Alonso che non ha in mano una macchina sufficiente per consentirgli di essere competitivo con gli altri, perché dati alla mano si vede che i distacchi a giro su giro sono molto consistenti. Allora, a questo punto conviene veramente di cominciare a pensare alla stagione Ventura. Ci sono ancora 7 gran premi, teoricamente 175 punti in gioco, però nella realtà, appunto, con Vettel che ne ha 259, e che speranze può avere Alonso che ne ha 157? Direi solo delle speranze aritmetiche. Sì, certamente. Per cui la gara secondo me è stata bellissima, ma ha anche chiarito una volta per tutti quali sono i valori sul mercato per quel che riguarda i piloti e dal punto di vista tecnico per quello che riguarda le vetture. Quindi Mario, tu dici che Vettel comunque ha il titolo in pugno, inutile combattere per tutti gli altri, sarebbe meglio cominciare con anticipo a programmare il futuro. Diciamo che è un po' migliorata la McLaren, anche se Hamilton, che dovrebbe essere la punta veloce della squadra, ogni tanto si infila in certe situazioni dove poi va a finire che esce di strada, e quindi se andiamo a vedere proprio la classifica del campionato, il regolarissimo Button ha 149 punti, il velocissimo Hamilton ne ha 146, questo vuol dire evidentemente che anche lui deve registrarsi un po', però la McLaren è un po' migliorata. Ma siccome a noi poi tutto sommato interessa che cosa fa la Ferrari, la Ferrari purtroppo è in condizioni tali che potrà sicuramente con un pilota fortissimo come Alonso ottenere degli ottimi risultati, ma tra questo e competere con le Red Bull e soprattutto puntare al campionato è un po' difficile. Mario, una battuta, un tuo commento, un tuo pensiero indirizzato a Michael Schumacher. 20 anni di corse compiuti con questo Gran Premio, nel quale, insomma, in questo weekend, il venerdì era stato il protagonista assoluto, poi il sabato è finito in fondo allo schieramento e oggi una gara in cui è riuscito comunque a portare una macchina che competitiva non è al quinto posto. Oltretutto è stato anche bravo, perché si è preso una bella rivincita nei confronti di Rosberg. Perché non nascondiamoci che se c'è una squadra in cui c'è un antagonismo fortissimo è proprio questa, perché è chiaro che Schumi non... quando uno dice entro 3 anni voglio arrivare a vincere il titolo mondiale, è chiaro che qualsiasi avversario per lui è un nemico. Nel caso specifico poi un pilota tedesco giovane che comunque va forte, riuscire a arrivargli davanti con la stessa macchina è un grande risultato. Sulle sue possibilità future si tratta di vedere, quello che è certo è che se c'è un pilota che ha una passione unica, monocorde e che continua su questa strada, è proprio il pilota Schumacher. Certo, maniaco integralista come nessuno. Integralista. Senti, però, invece... insomma, è stato, è stata una bella corsa. Invece Mario, per chiudere, parlavamo dello psicodramma annunciato, dell'ennesimo psicodramma annunciato di Valentino Rossi a Indianapolis con il 14° tempo. Va bene tutto, ma 13 avversari davanti a lui, io sinceramente non me l'aspettavo. Cioè, non ci avrei mai creduto, e questo mi fa nascere ogni volta di più dei sospetti, dei dubbi. Sulla reale voglia di un altro integralista come Valentino. D'altra parte, non dimentichiamoci che per una serie di motivi Valentino si è trovato nella condizione di ritenere che la scelta Ducati fosse quella che tutto sommato gli conveniva di più. Mm. Ha avuto fiducia, ma soprattutto non dimentichiamoci che Valentino nel corso della sua carriera aveva avuto grandissimi successi con la Honda, ma poi dopo c'era stato un certo malcontento nei confronti della casa giapponese. Poi con la Yamaha è andato fortissimo, però ha voluto il muro divisorio tra la sua box e quello di Lorenzo. Questo probabilmente è stata, diciamo, l'avvisaglia che anche con la Yamaha non andava tanto d'accordo. Allora, è capitato l'occasione della Ducati comunque in crescita, perché Stoner è riuscito a portarla ai vertici, e quindi lui ha detto, correndo assieme a Stoner, dovrebbe anche aver capito quali sono le peculiarità tecniche, diciamo, della Ducati. Insomma, si è fidato, ha fatto questo salto che dal punto di vista delle immagini senza dubbio è stato importante, il pilota italiano, la macchina italiana e così via. Dal punto di vista tecnico purtroppo si è venuto a trovare con una motocicletta che per quanto modernissima non è riuscita a interpretare i regolamenti nel modo migliore per offrirgli un mezzo nel quale lui potesse dimostrare che i suoi valori di guida sono intatti. Certo. Lui può fare, ormai deve fare, finché le cose stanno così, una corsa, diciamo, di regolarità. Sì. Cioè, perché in fin dei conti l'ha detto anche ieri, quando sono andato con la seconda moto non potevo rischiare, perché sennò cadevo un'altra volta. Lo so, però il re che va a combattere in mezzo al plotone con le truppe a sporcarsi le mani, chiaramente non te lo saresti mai aspettato. Si è tentato in questo caso di lavorare per l'anno prossimo, ma con risultati quantomeno al momento rivedibili. Mario, ti ringrazio, alla prossima. A te, ciao. Grazie, un abbraccio. Grazie, buonasera a tutti. Sicilia, Ranieri da Ragusa, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, buongiorno. Per fortuna noi siamo qui. No, niente, io la chiamavo perché appunto non ho capito bene il motivo dello sciopero di questi calciatori, se non che non vogliono versare la quota, la tassa di solidarietà, non ho capito bene, però certo è un po' uno scandalo a mio avviso, con la crisi che imperversa in Italia. Sì, però levano l'unico passatempo. È vero, sì, ci levano l'unico passatempo, e è il caso anche di non eccedere con la demagogia, almeno a mio parere, anche se è molto facile in questo periodo, non solo per quelli che scrivono sugli striscioni, ma anche quelli che scrivono da altre parti, cadere nel populismo. Le ragioni, il fatto è che le ragioni reali, vere, concrete, serie non ci sono in questo sciopero, ci sono ragioni pretestuose, c'è stato un arroccamento da parte dei proprietari su posizioni volutamente granitiche, questo per inasprire i toni di quella che è non una stensione da lavoro, ma è uno scivolamento da prima giornata di campionato, ma è soprattutto una battaglia politica, perché che ha come fine quello di far rotolare le teste di Diabete in primis, magari anche di Petrucci, che però oggi, poi ne parliamo, in un'intervista chiaramente detto che Abete resterà al suo posto e che i presidenti, che è difficile trovare degli interlocutori che non vanno mai d'accordo tra di loro, nemmeno a Natale. E d'altra parte ci si potrebbe anche domandare come si può considerare un interlocutore credibile in una Lega Calcio che ha esautorato il presidente Beretta da un sacco di tempo. Beretta destinato già dichiaratamente ad una poltrona forse un po' più tranquilla ad Unicredit, però un sostituto ancora non c'è, e in questo momento è il capopopolo di una Lega Calcio che conferma e ha confermato ancora oggi con le ultime dichiarazioni le sue spaccature interne profonde. C'è chi propone una Consob del pallone, lo ha fatto Della Valle, c'è chi come Zamparini dice sciocchezze, c'è chi come Galliani dice va bene, allora loro, i calciatori, rinuncino alla firma del contratto per il momento, noi rinunciamo alla clausola sul contributo di solidarietà. Lo stesso Zamparini risponde sciocchezze, quelle che dice Galliani. C'è Cellino che chiede un commissario per gestire questi problemi e per far sbucciare ad altri che non siano coinvolti il tubero bollente. Insomma, mi sembra che ci sia una situazione di questo tipo. È inutile andare a cercare ragioni di uno sciopero che sono attualmente assolutamente pretestuose. Quindi inutile star lì a ricercare, a fare l'elenco della spesa di nuovo, dal contributo di solidarietà, che peraltro è qualcosa di ancora modificabile, di ancora provvisorio, di non ancora definitivo. E quindi più pretesto di così secondo me si muore. D'altra parte io non ho sentito neanche un calciatore dire che lo stesso Tommasi l'ha detto più volte, nessuno di noi dice che non vuol pagare contributi di solidarietà. Poi discutiamo sui contratti pregressi, se c'è scritto il netto, se c'è scritto il lordo, contratti che sono stati firmati di comune accordo, io credo, senza costrizioni, perché altrimenti sarebbero nulli da parte di nessuno. Luca da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, illustrissimo Torgenta, che con Granzini e Tavelli formereste un trio veramente magico. Sì. Allora, sì, io dico che se ci fossero due persone, due cacciatori, che anche se non ci sono più, però vivono in me, come Facchetti Scirea, sì, molte cose sarebbero diverse, a cominciare da questo odio che c'è rinfocolato continuamente da certi dirigenti, anche perché io poi ricordo che negli anni 90, quando una certa squadra di Milano, tifoso interista sono, vinceva le Champions, non si parlava dell'assenza di squadre inglesi. Adesso, sì, che diventerà un'utopia vincere qualcosa in Europa, si fanno i danni sulla mutualità, su altre cose, su diritti, su merchandising. Beh, ma sa, Luca, i tempi sono diversi, ogni epoca ha dei rappresentanti, ha delle figure positive, ha delle figure negative, ogni epoca ha dei movimenti d'avanguardia. Anche noi siamo stati movimento d'avanguardia per lungo tempo, quindi non lo so, secondo me è abbastanza così stucchevole, un po' inutile, un po' triste rimpiangere per forza a tutti i costi il passato. Certamente sentiamo l'assenza di personaggi come quelli che lei ha citato, però questo a prescindere dalla stensione, dal lavoro dei giocatori. La ringrazio, Luca. 800 24 00 24. Marco Ansaldo, penna illustre della stampa, nostro amico. Ciao Marco, buongiorno. Ciao. Oggi a Sky si sono inventati anche le partite virtuali, facendo giocare i telespettatori con il tasto verde del telecomando. Ah, bene. Poveretti. Direi che è un buon sistema per passare la domenica. Io ne conosco alcuni altri migliori. Sì. Cos'hai fatto oggi, se non sono indiscreto? Oggi ho fatto finalmente un buon pranzo domenicale, mi sono goduto il sole a casa mia. Purtroppo adesso sono obbligato a venire a Milano per un servizio, ma nell'insieme tutto bellissimo anche senza carico. Assolutamente sì, non mi sembra il caso di eccedere con la rabbia e con i rimpianti, ma certe volte neanche con la demagogia. Mi sembra un po' difficile, però mi chiedono, Marco, l'ultimo un ascoltatore di poco fa da Ragusa, ma io non capisco bene le ragioni di questo sciopero. Sinceramente, più che ragioni, di ragioni parlerei di pretesti, dunque diventa difficile spiegare dei pretesti alla gente. No, ma io credo che invece abbia ragione l'ascoltatore. Non ha capito, perché in realtà nel mare di demagogia che è stata fatta e che continua a esserci, oggi sentivo una televisione, non so se era una della media, o altre cose, che hanno fatto, ovviamente sono andati in giro con il microfono per le strade e hanno chiesto alla gente cosa ne pensava. C'era una signora che diceva: questi calciatori non sapeva, questi calciatori che guadagnano, è uno scandalo che facciano sciopero, non sapeva né perché né per come. C'è stata molta disinformazione, devo dire, continua a esserci. Io ti dico onestamente, non sono mai stato d'accordo sugli stipendi dei calciatori, sono convinto che tutto questo mondo vada ridimensionato, dei calciatori ma anche degli allenatori, dei direttori sportivi che sbagliano le scelte, dei presidenti che si lucrano sopra alcuni almeno e così via. Però questa volta hanno ragione i calciatori. Certo. Certo. Non ci riesce da fare, cioè questo è un contratto di lavoro. Certo. È vero che intere categorie, a partire dalla nostra, ha vissuto per 4, 5, 6 anni senza aver rinnovato il contratto di lavoro, però poi arriva un momento in cui devi averlo. E quindi non è stato rinnovato un contratto di lavoro, non su una cosa economica, perché è un'enorme balla questa cosa del contributo di solidarietà, perché non è così, tanto è vero che poi non si sa nemmeno se questo contributo di solidarietà poi lo dovremmo pagare tutti oppure no, ma è semplicemente su un altro punto, che è il punto dei fuori rosa. Certo. E quindi, siccome mi sembra che quello invece sia un discorso anche di dignità di una persona, e non, la dignità non è che si svende per con i milioni o le centinaia di migliaia di euro che guadagna un calciatore, secondo me questa volta il calciatore ha fatto bene a dire basta. Io dicevo che se fossi io un calciatore lo farei a oltranza. Certo, no, ma io come sono. È stato fatto negli Stati Uniti per il tempo. Io, caro Marco, sono giorni che mi allineo su questa tesi e infatti conduco con l'elmetto sotto la cuffia, no? Perché ti dicono ma i calciatori con quello che guadagnano diritti non ne hanno, e questa posizione mi sembra francamente incivile. È vero che avrebbero potuto compiere il beau geste di dire adesso giochiamo lo stesso senza contratto, vi dimostriamo che siamo pronti a giocare, diamo questa disponibilità. È chiaro che avrebbero disinnescato da un lato le pernacchie che si stanno prendendo ora in gran parte, e dall'altro avrebbero forse scoperto il bluff di presidenti che hanno altri obiettivi, che sono dalla testa di Abete a quella di magari di Petrucci, che peraltro oggi sul tuo giornale in una lunga intervista sulla Stampa dice Abete resta al suo posto, non consideriamo interlocutori credibili questi presidenti che vanno d'accordo soltanto il giorno di Natale, ed è ottimista. Direi che questo è vero, cioè Petrucci, che era partito un po' con questa idea di no, ma lo sciopero qui e là, anche il calciatore, alla fine ha preso atto che questo sciopero l'hanno voluto soprattutto le società, perché questa contrattazione i calciatori hanno già ceduto molto una buona parte dei loro privilegi, pur mantenendone alcuni anche troppi ancora. Però arriva un momento in cui poi tu devi mettere un paletto. Allora io dico, la questione del fuori rosa è chiaramente un pretesto, perché sai benissimo anche tu e forse anche qualche tuo ascoltatore che i calciatori finiscono fuori rosa, non dico quelli che hanno preso a cazzotti il compagno o hanno insultato l'allenatore, ma i calciatori che semplicemente sono finiti fuori rosa perché la società si è accorta che non servono più, finiscono fuori rosa soltanto perché è un modo per fare pressione su di loro perché facciano di tutto per andarsene via. Questa è la ragione vera. E poi ti dico anche un'altra cosa, ho la sensazione che i presidenti del calcio, che hanno preso cefoni dall'associazione calciatori per 20 anni e hanno accettato supinamente tutto quello che l'associazione calciatori faceva passare, perché l'associazione calciatori era compatta mentre loro erano divisi, adesso stia facendo un po' come fanno alcuni industriali, che sfruttando il momento, la paura di perdere il posto di lavoro, tutta la crisi, la demagogia e così via, stanno cercando di tornare a fare veramente, avere gli atteggiamenti dei padroni del vapore. Cioè, noi decidiamo che tu puoi andartene a giocare in un'altra squadra e tu devi accettare, noi decidiamo che tu devi allenarti alle 2 del pomeriggio insieme ad altri 3 o 4 e tu devi accettare. Una delle ragioni che loro dicono, ho letto da qualche parte, mi pare oggi Gherardi, presidente del Parma, dice ma in fin dei conti noi fuori oggi li possiamo allenare, hanno un preparatore atletico, hanno un allenatore, questo è uno che non ha mai giocato a calcio uno sport di squadra, perché allenarsi per un calciatore non significa saltellare e fare dei giri di corsa, significa fare delle partitelle che lo tengano allenamento, in attività, in funzione per quello che è il significa giocare all'interno di una squadra, cosa che ai giocatori fuori rosa non viene consentito. Giocatori fuori rosa, che è bene ricordarlo, hanno firmato un contratto libero da ogni costrizione da ambedue le parti, se no il contratto sarebbe nullo. Questo lo ricordiamo ogni volta. Marco, io ti ringrazio e ti auguro buona domenica. Ok, ciao. Grazie a Marco Ansaldo. Adesso ci fermiamo per un attimo e poi torniamo a parlare con gli ascoltatori. Luciano da Firenze, Giovanni da Torino. 800 24 00 24 il numero verde. Ci sono anche argomenti calcistici, se ne avete voglia da trattare, perché mi pare che l'Inter, che ieri ha incassato altri 3 gol, stavolta dal Chievo in amichevole, perdendo questa amichevole, subisce gol a raffica. C'è Sneijder che sta diventando sempre più un caso, c'è Roberto da Belluno che scrive pessimista, via e tu via Sneijder, finiti i soldi, torneranno i motorini a San Siro, ci auguriamo di no, che quell'epoca che quell'epoca sia finita, soprattutto certi gesti di stupideria totale. C'è la Roma alle prese con il casino Totti e con Di Benedetto che dice no, io sto dalla parte di Luis Enrique. C'è la Juventus che ammassa esterni per far felice Conte, adesso per la difesa dopo varie voci su Lugano, che secondo me alla fine poteva essere davvero il giocatore giusto anche per caratteristiche fisiche e tecniche per sistemare la difesa, dopo Lugano, dopo Alex che invece non mi sembrava il giocatore corretto per la struttura della retroguardia e dei compagni di squadra alla Juventus, adesso si parla di questo Rodolfo che io sinceramente conosco pochino. Comunque, per chi avesse disperato bisogno di calcio magari televisivo, gli altri campionati si giocano oggi, anzi giornata interessante in Premier League, dove c'è stato il Manchester City che ha confermato il suo grande momento vincendo 5-1 a Londra con il Tottenham, con 4 gol di Edin Dzeko e rete di Agüero. E adesso c'è in campo il Manchester United che sta battendo 2-0 l'Arsenal, siamo al 33esimo di gioco del primo tempo. Welbeck dopo 22 minuti, al 27esimo rigore per l'Arsenal sbagliato da Van Persie, ma non poteva sbagliare l'altra sera con l'Udinese. Quel tocco sotto porta. Vabbè, 28esimo gol di Young, Manchester United 2 Arsenal 0, mentre il City si candida seriamente per qualcosa di grande ed importante. Luciano da Firenze, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi la ringrazio per il collegamento, ringrazio Radio 24. Vorrei far rilevare una cosa, che nello scenario di questo disordine che sta investendo particolarmente il calcio e quindi divengo la Serie A e in generale tutto il mondo calcistico, si può rilevare anche una grande impreparazione e approssimazione da parte di tutti gli organi di informazione. Credevo che il massimo si fosse raggiunto con i pronostici che fecero i nostri esperti e commentatori in televisione prima della partita Italia-Nuova Zelanda, quando chi diceva 2-0, chi diceva 2-1, chi 3-0. Quella dei mondiali, naturalmente. Dei mondiali, caro Gedda. Ma mi sembra che tuttora si sia a un livello veramente di approssimazione. Non so se questi commentatori in generale che appaiono sull'informazione siano pescati proprio in cantina. Sì. In realtà la questione giuridica dei calciatori è semplicissima, insomma. Cioè? Perché questi calciatori hanno sottoscritto, come diceva lei poco fa, liberamente, assolutamente senza costrizione, dei contratti. Nei contratti o è previsto delle retribuzioni che devono dare un risultato netto o è previsto delle retribuzioni lorde, in pochissimi casi, questa seconda possibilità. Per cui quel problema lì non esiste, è un problema artificioso sollevato dalla Lega, insomma. Sì, no, ma siamo quello che dicevamo prima, Luciano. Sono argomenti abbastanza pretestuosi. Io credo che lo sia certamente questa storia del contributo di solidarietà. Credo che lo sia in buona parte anche il discorso sull'altra clausola relativa ai fuori rose, anche che io trovo condivisibile, e io trovo condivisibile allineandomi con Marco Ansaldo e con qualche altro collega che mi è capitato di sentire in questi giorni, mi trovo allineato sulle posizioni dei giocatori. È chiaro che è una riserva indiana abbastanza impopolare, perché è assediata dagli arrabbiati e da chi fa largo uso di demagogia, però non mi importa, quindi la mia posizione è questa. Trovo difficile fare un paragone sul piano della competenza tra Italia e Nuova Zelanda e la questione dei contratti, ma tant'è. Io la ringrazio lo stesso, grazie a Luciano da Firenze. Giovanni da Torino, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dirle, io credo che la sua posizione però, forse, che è verso i calciatori, sia un pelino eccessiva, perché in questo momento non hanno ragione né i calciatori e né le società, secondo me, nel senso che ogni persona normale, quando va a firmare un contratto, lo firma al lordo. Mm-hmm. È un'anomalia firmare un contratto al netto, cioè io, se voglio andare a lavorare per qualcuno, non mi dirà mai ti assumo al netto, ti assumo al lordo. Nel momento in cui lo Stato, mi sente? Sì. Lo sto ascoltando. Ecco, grazie, scusi. Se per caso lo Stato, che nella vita succede un problema, questo problema va affrontato in quale modo? Che se io ho avuto il contratto all'ordo, chiaramente sarò penalizzato perché dovrò pagare più le tasse o quello che è, e quindi il mio netto sarà inferiore. In questo caso, siccome io penso che sia sbagliato a monte, perché i contratti vadano fatti al lordo, dovrebbero pagare il 50% i calciatori e il 50% le società. In un futuro immediato si potrebbe fare questo discorso. Ma questo però sarebbe frutto di un accordo? Ma neanche le società sapevano che gli arrivava una travata in testa. La travata è arrivata a tutti, e quindi è giusto che se la dividino al 50%. Può essere una soluzione, Giovanni. Noi diciamo è giusto, però deve essere anche questo risultato di una trattativa, perché si dice, ieri si diceva anche, ma i calciatori potrebbero, visto quello che guadagnano, potrebbero anche fare il bel gesto e dire vabbè, questa roba la pago io, anche se dovresti pagarla tu. Però io faccio fatica onestamente a vedere in giro gente anche molto ricca che regali i soldi per fare un bel gesto, quindi si tratta, innanzitutto è ancora tutta da definire, no, la vicenda, quindi mi sembra, è questo che dico, è pretestuoso, mi sembra assurdo fermare tutto e stare a rimettere in discussione un accordo collettivo, perché qui di accordo collettivo stiamo parlando, non dimentichiamolo, per qualcosa di sopravvenuto e di ancora incerto. Quindi questo mi sembra pretestuoso, poteva essere più serio a quel punto dire discuteremo, aspettiamo, magari anche da tutte e due le parti, aspettiamo a siglare questo contratto, teniamo buono alla base di dicembre e poi vediamo cosa succede con i nuovi chiari di luna. Poi lei dice è giusto, sì, può essere giusto, può essere una soluzione condivisibile, però è una soluzione che devono trovare in via di trattativa privata, io credo, i diretti interessati, quindi diventa difficile, può essere una soluzione che può piacere, però è una soluzione che va comunque concordata, e siccome i contratti futuri da qui in poi verranno siglati all'ordo e su quello il problema non si pone, e tra l'altro torno a ripetere, io non ho sentito nessun calciatore dire, tantomeno il rappresentante dei calciatori Damiano Tommasi, non vogliamo pagare contributo di solidarietà. È per questo che dico che mi sembra un problema una questione piuttosto pretestuosa, che nasconde altre necessità da parte dei presidenti, o altri desideri da parte dei presidenti. Insomma, per dirla in due parole, mi sembra una grande battaglia politica, uno scontro campale sul piano politico, nel quale a questo punto i calciatori, anche e soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica, sono enormemente indeboliti in una trattativa che riprenderà domani. Io però vorrei provare a parlare di altri discorsi, perché questo improvviso silenzio sceso sui nostri stadi, tra parentesi, questa storia del campionato che inizia col coito interrotto, quindi una giornata di campionato e poi pausa per la nazionale, a me non va mai giù, continuano ad andarmi giù, di conseguenza trovo che, lasciando stare lo sciopero, la tempistica sia più condivisibile così. Nazionale, e poi si giocherà a pallone. Non ho grossi dubbi sul fatto che si giocherà a pallone tra due settimane, ma questo è soltanto un inciso e un gusto personale. Michele Criscitiello da Sport Italia, buongiorno Michele. Buona domenica Carlo, ben ritrovato, buon pomeriggio a tutti. Chiedo anche a te cosa fai in questa domenica senza campionato, lavori come me? Assolutamente sì, perché questa sera dovevamo partire su Sport Italia con Che Domenica, pubblico, ospiti, Milano, Roma, partita e lights, accordo con la Lega Calcio, salta tutto, però siccome non ci piace né stare al mare né stare a casa, abbiamo inventato uno speciale calciomercato filo diretto con i tifosi che potranno intervenire dalle 21 alle 23, fare domande, e comunque il nostro pane quotidiano è il calciomercato. Mi ricollego velocemente a quello che dicevi tu, sacrosanto, qui non si mettono d'accordo né sul netto né sull'lordo, come se fosse così importante il netto e l'lordo se stanno guadagnando 1200 euro al mese. Si devono vergognare tutti, a partire dalla Lega Calcio, dalle società, dai presidenti, all'Associazione Italiana Calciatori, a un Tommasi che nel giro del calcio italiano ormai manca da tempo, e quindi è più facile che possa risolvere i problemi del calcio cinese anziché quelli del calcio italiano, giusto per far capire un po' a che punto siamo messi. Per quanto riguarda invece l'altra tua osservazione, anche qui sottoscrivo, non perché siamo in diretta ma perché sono d'accordissimo con te, come se ci fossimo parlati, invece non lo abbiamo mai fatto in questo caso. Come si fa a far partire un campionato al 28 agosto, che non è la prima volta, poi interrompersi subito dopo alla seconda giornata perché c'è la nazionale e poi riprendere? comunque ci potevano risparmiare tutto questo, e secondo me anche in questo caso c'entra un po' il calciomercato, perché se ci fai caso moltissime sicuro società e molte tifoserie italiane sono deluse da questo calciomercato, i presidenti e i direttori sportivi hanno colto la palla al balzo per far chiudere il mercato, no, certo, e poi all'11 settembre guarda, iniziamo il campionato. Michele, io sono convinto, e tu sei particolarmente dentro le cose di mercato, io sono convinto che questa sia una delle ragioni vere. Se andiamo a cercare delle ragioni, allora le ragioni vere possono essere, ne abbiamo parlato proprio ieri, possono essere quelle di veder finire il mercato, e anche lì si tratterebbe soltanto di mettersi d'accordo sulle date, nel raccordare le date di fine del mercato e di inizio del campionato, quindi veder finire il mercato, sistemare le squadre. Ci sono un sacco di club, soprattutto di top club, che hanno bisogno di un po', come l'aria, di un po' di tempo per lavorare, perché l'Inter fosse andato in campo oggi con il Lecce, non so se, come dicono i telespettatori, in questo sondaggio virtuale avrebbe davvero portato a casa i 3 punti. C'è l'Inter che ha un sacco di problemi, c'è la Roma che ne ha anche di più, c'è la Juventus che sta facendo mercato in queste ore, no? Sì. Allora, ti faccio un piccolo giochino. Tutte le società e tutti i tifosi sono delusi dal mercato. L'Inter va via Eto'o, ancora non è arrivato Forlan e ancora si cerca un acquisto importante anche a centrocampo. Il Milan, da giugno stiamo parlando di Mister X, è arrivato Aquilani, con tutto il rispetto, ma il Milan ha fatto un grandissimo mercato dei parametri zero, poi si è fermata, ma per ovvie ragioni, e va bene così. Il Napoli ha fatto un buon mercato, la Lazio ha fatto un buon mercato, la Roma ha dei problemi, in questo momento è un disastro a Trigoria, la Fiorentina ancora non ha capito cosa vuole fare da grande, deve risolvere la grana Gilardino, il Palermo ha venduto tutti, tra poco gioca in campo Zamparini, e ci sono tante situazioni e ancora soluzioni da prendere e da decidere. È ovvio che in questo momento giocare il 28 agosto non conveniva a nessuno, perché può essere anche un amichevole, ma l'Inter che perde al 27 agosto con il Chievo Verona ci può stare, ed è la fotografia di tutti i mali di un mercato che, a mio avviso, per le grandi e per le non grandi d'Italia, ma non mi riferisco alle piccole ma quelle di medio livello, è stato un disastro assoluto, perché non c'è i soldi. Ti posso preannunciare solo la copertina di questa sera su Sport Italia alle 21. Sì. Prendete il Barcellona, 80 milioni di 2 giocatori, Fabregas e Sanchez. Prendete il Manchester City in Inghilterra e prendete cortesemente in Francia il Paris Saint-Germain, che adesso in questo momento è in diretta proprio su Sport Italia. Singolarmente queste società hanno speso il doppio, se ci fate caso, di tutte e tre le big italiane, Milan, Inter e Juventus, messe insieme. Cosa succede in settimana, Michele? Gilardino deve firmare con il Genoa, Zárate al 30 deve per forza raggiungere l'accordo con l'Inter e quindi deve andare con prestito diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Roma deve provare a chiudere sia Gago che Palacio e quindi porta mezza Argentina alla corte di Luis Enrique. Il Milan non lo so, non me lo chiedere, perché sinceramente faccio fatica a capire, ma secondo me un colpettino lo deve piazzare Adriano Galliani dopo quest'estate famosa da Mister X. Il Napoli ha finito, l'Inter prenderà Forlan, diciamo di Zárate, ma prenderà anche Forlan una volta che avrà risolto i suoi problemi con l'Atletico Madrid per 5 milioni di euro, e poi la Fiorentina proverà fino all'ultimo per l'attaccante del Catania Maxi Lopez, e secondo me alla fine ci può anche riuscire. E Snyder va via? Snyder va via, non penso ci siano più le condizioni, sinceramente. No, quindi Snyder resta ed è un problema da risolvere per Gasperini, che comunque ne ha non pochi, visto che becca 3-4 gol a partita. Quindi mi sembra l'Inter tutt'altro che pronta per il via della stagione. Grazie Michele, buon lavoro! A voi, buon lavoro e buona domenica, grazie, ciao! Grazie Michele Criscitiello. E Wayne Rooney segna il 3° gol dello United, 41esimo, Manchester United 3, Arsenal 0. E questa partita magari aumenta i rimpianti di Guidolin e dei tifosi udinese, perché mi sembra davvero l'Arsenal più modesto degli ultimi 10 anni, facciamo così? Cercate lacrime, non ne vedrete sul mio viso, non ho altro da aggiungere per il momento perché ho bisogno di tempo. L'ha detto non un giocatore, neanche un tifoso, ma Usain Bolt dopo l'incredibile squalifica di oggi. Una squalifica per la quale addirittura la IAF, la Federazione Internazionale dell'Atletica Leggera, si è scusata con un comunicato non richiesto e giudicate voi quanto opportuno, in cui si scrive: è importante ricordare che la credibilità di uno sport dipende dalle sue regole e dal fatto che devono essere applicate con costanza e alla stessa maniera per tutti gli atleti, e chi ne dubita. È Bolt che ha fatto un incredibile, inspiegabile errore per essere il più forte sprinter del mondo e quindi anche uno abituato a subire le pressioni di una finale mondiale dei 100 metri in cui era favoritissimo. Non c'è bisogno di scusarsi, e per Bolt probabilmente non c'è bisogno di piangere, magari sarebbe bisogno di capire come mai ha potuto commettere una sciocchezza così evidente in una finale importante che aveva in tasca. Ha parlato che Kim Collins, il vecchio Kim Collins, che vinse il titolo un'era geologica fa, cioè nel 2003, e che è incredibilmente arrivato sul podio quando magari non pensava neanche di qualificarsi, però venute meno tutte le superstar, Collins ha piazzato questo sprint da medaglia di bronzo e ha detto: sono felice perché volevo assolutamente il podio, ma allo stesso tempo mi rendo conto che questa è una serata triste per l'atletica. Lo ha detto Collins. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono molto d'accordo con le opinioni di Criscitiello, lo sono un po' meno con le sue opinioni quando prende le parti dei calciatori, non tanto per motivi di soldi o di guadagni effettivamente spropositati, ma soprattutto perché a me sembra che poi i giocatori abbiano sempre un grande potere e il coltello dalla parte del manico. Se un giocatore si mette in testa, anche se mancassero 2, 3, 4 anni di contratto, di andare via da una squadra, alla fine ci riesce sempre in un modo o nell'altro. Una squadra ci riesce sempre, ci riesce sempre, però se è sotto contratto, chi detiene questo contratto ci guadagna, no? Lo abbiamo visto anche di recente, sì, mi pare, con Eto'o, che pure aveva un contratto con l'Inter, non è stato trattenuto, l'Inter ci ha fatto i soldi che ha ritenuto giusti ed opportuni, quindi possiamo discutere sullo scarso valore dei contratti, ma è un discorso che va applicato da tutte e due le parti, no? Sì, però insomma l'opinione comune, e mi sembra che abbia dei fondamenti di validità, è che poi questi contratti non vengano mai rispettati quando una delle due parti ha intenzione di perseguire altri programmi. Il concetto del fuori squadra, perché poi questi giocatori molte volte, magari al fine carriera o magari per un anno sfortunato, non accettano nemmeno trasferimenti molto facilmente, trasferimenti in squadre di piano leggermente inferiore o di secondo livello, quindi si impuntano al voler rimanere a tutti i costi, oppure l'ingaggio che aveva una sua motivazione magari 2 o 3 anni prima per un rendimento molto elevato. Marco, però questi sono rischi che si corrono, no? Sono rischi che si corrono, che la società corre firmando un contratto con un giocatore. Insomma, mi sembra che il piano della discussione sia questo: è un rischio il contratto di un giocatore, è un rischio molto costoso, può andarti bene, quindi puoi prendere un giocatore, valorizzarlo e poi venderlo per molti più soldi, puoi perdere dei soldi, mi sembra un rischio che sia da entrambe le parti. Io trovo che non si possano, i calciatori, per quanto tutti li invidiamo, io per primo e dichiaro assolutamente la mia invidia per gli sportivi in generale, che fanno uno splendido lavoro e si divertono, guadagnano un sacco di soldi, possiamo criticare tutto questo, possiamo non essere d'accordo, possiamo essere rosi dall'invidia, però qualche diritto ce l'hanno, e secondo me hanno anche il diritto di chiedere di lavorare nell'ambiente per cui hanno firmato un contratto, no? Cioè, se vengono messi fuori rosa, ghettizzati perché non vogliono accettare trasferimento, perché non vogliono, e questo è particolarmente odioso, firmare il contratto per l'anno successivo, e allora io ti metto fuori rosa e ti rovino questa stagione, così perdi valore, perdi potere contrattuale, eccetera. Secondo me questa era una questione da sistemare, senza arrivare ovviamente a questi punti, però è una questione da sistemare. Quindi da questo punto di vista io credo che i giocatori, pur guadagnando un sacco di soldi, qualche diritto ce l'abbiano pure. No, questa è semplicemente la mia posizione. Poi con questo sciopero, secondo me, hanno indebolito enormemente la loro posizione nella trattativa che riprenderà domani. Quindi non condivido assolutamente la posizione di chi dice: guadagnano un sacco di soldi, dunque di diritti non ne hanno. Questa mi sembra una posizione che sfiora la barbarie. Pietro da Pescara, buongiorno. Ecco, anch'io penso che il tema dei soldi sia assolutamente fuorviante. Ma cioè, anche perché non è una questione di soldi, in Spagna era una questione di soldi, peraltro anche legittima, caro Pietro, come lei saprà, perché c'erano giocatori, poi se volete ve lo faccio raccontare di nuovo da Filippo Maria Ricci, che è ospite in scaletta oggi, c'erano giocatori che che non prendevano quattrini dai loro club, i quali potevano evitare di pagare questi soldi in virtù di una legge in vigore in Spagna senza nemmeno incorrere nel fallimento e quindi con la perdita della categoria di appartenenza. E dunque lì sì, era una questione di soldi, eppure era una questione assolutamente sacrosanta di quattrini. Quindi anche in quel caso, secondo me, c'era da solidarizzare, mi sembra troppo, c'era da ragionare sulla posizione dei calciatori spagnoli. Dica. Diciamo che certi dettagli non li conosco, perché oramai dagli anni 90 che non seguo più il calcio con attenzione, da quando è diventato un business. Però mi sembra di vedere che i presidenti, che dovrebbero essere degli esponenti della cultura liberista, abbiano utilizzato il tema degli stipendi dei calciatori e di questo contributo di solidarietà in maniera appunto demagogica e politica. In maniera strumentale, parte, mi pare. Ecco, strumentale, no? Strumentale, ma anche tutto sommato politica, perché poi ci sono tanti politici che si sono agganciati a questo argomento. Io che cos'è che volevo mettere in evidenza? Che invece le società di calcio, rispetto a tutte le imprese italiane, godono di privilegi enormi, primo tra tutti quello della cosiddetta spalma debiti. Ci sono tantissime imprese in Italia che stanno in difficoltà e che hanno come interlocutore Equitalia o l'Agenzia delle Entrate o l'INPS, non riescono a spalmare i debiti, anzi devono far fronte pena, pignoramenti e vendite all'asta. Invece le società di calcio hanno la possibilità di spalmare su 20 anni il loro indebitamento, certo. Perché poi tante volte questo indebitamento nasce da plusvalenze drogate, sì. Soltanto così, e quindi tutto questo è ingiusto nei confronti del sistema economico italiano. Questo è così. Tutti. Pietro, queste sono cose che sappiamo, ma sono anche cose che con la vicenda attuale non c'entrano nulla. Conosciamo queste distorsioni, lei ha ragione a ricordarle, però non sono la chiave del discorso attuale, possono essere la chiave di molte altre discussioni, perché è difficile dimenticare l'estate del salvataggio della Lazio quando arrivò Lotito e appunto si prese il coltello e si cominciò a permettere la spalmatura di questi debiti. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Eccolo qui, evocato prima. Senti, ci rispieghi in due parole, perché magari qualcuno non ascoltava l'altro giorno, la ragione dello sciopero dei calciatori spagnoli? No, io pensavo la ragione del dito nell'occhio, guarda un po'. Quella te la chiedo dopo. La ragione dello sciopero qua in Spagna erano, diciamo, spiegata rapidamente. I club hanno accumulato in questi anni oltre 50 milioni di debiti con oltre 200 giocatori. E in più, in Spagna i club possono iscriversi a una legge che si chiama Ley Concursal, creata per imprese commerciali, non certo per squadre di calcio, che permette loro di spalmare i debiti come in Italia o addirittura di ridurre gli stipendi, il tutto però senza perdere la categoria. E quindi una forzatura assoluta, e adesso si sono accordati per aumentare il fondo di garanzia, e soprattutto la Lega accetterà quella che è un disegno di legge che deve essere votato in Parlamento a novembre, secondo la quale anche andando avvocandosi alla Ley Concursal, le squadre perderanno il diritto di rimanere nella loro categoria, come mi pare giusto che sia, se no il gioco esatto. Vale la candela, se non perdi la categoria. Di 22 squadre europee che sono andate in amministrazione controllata, 20 sono spagnole. Sì. E mi dicevi l'altro giorno che sono solo 5 quelli in regola col pagamento degli stipendi. Dunque non so se avete capito, 5 squadre in regola col pagamento degli stipendi, e in Spagna, dove pure hanno ovviamente il loro grane come da noi, non se la passano benissimo neanche i calciatori. No, questo non è lo sciopero dei milionari, era lo sciopero dei poveracci, ovviamente sempre dei calciatori rimangono, sì. Però l'abbiamo detto l'altro giorno, se uno firma un contratto il datore di lavoro è tenuto a pagare, che poi dopo sia un contratto da 500.000 euro o da 5.000, cambia poco, e se poi non te li danno... Poi il giudizio etico sul contratto, se volete datelo da soli, a me non interessa dare un giudizio etico su un contratto, perché comunque continuo a pensare che i contratti, che le cifre sui contratti le scriva la legge del mercato. Senti, mi fa un piacere, Filippo, mi fa un piacere. Guarda, io volevo sapere, ma con calma, la ragione del dito nell'occhio di Mourinho, mi sembra inutile chiedertela in 30 secondi, quindi ti richiamiamo subito dopo il giornale radio. Va bene, a dopo. A dopo, grazie Filippo Maria Ricci. Dunque, torniamo ripristinando il collegamento con Filippo Maria Ricci dalla Spagna, per noi per la Gazzetta dello Sport, mentre è ripreso anche Manchester United Arsenal dopo l'intervallo, il punteggio dice 3-1 perché in chiusura del primo tempo Walcott ha accorciato per l'Arsenal. Filippo? Buon pomeriggio di nuovo. Di nuovo buon pomeriggio a lei. Allora, da Saragozza, dove vediamo all'opera il debutto del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Dita a posto. Sì, dita in noi. Attenzione, perché adesso c'è un altro dito nell'occhio. A chi? A te? No, a Iker Casillas, al capitano. Addirittura. Sì. Perché l'altro giorno al trofeo Bernabeu, sai che Iker Casillas, dopo il primo dito nell'occhio, ha cercato di un po', voi dite, visibilmente preoccupato per lo stato di salute della nazionale di cui è capitano, ha chiamato sia Xavi che Puyol. Cioè, ha chiamato Xavi, Xavi non gli ha neanche risposto. Allora ha chiamato Puyol e poi Puyol gli ha passato anche Xavi. per cercare di così. Aspetta che te lo passo, gli ha detto. Sì, sì, dice per favore, va, dice no, vabbè, va. Sono messi lì e addirittura oltre ad aver chiesto scusa a Casillas poi ha anche lanciato l'idea di una cena no? Con quella che ho definito una per affettare una bistecca della pace. Sì. E la cosa a Mourinho non è piaciuta per niente, perché lui il Barcellona c'è una crociata contro il Barcellona, se il suo capitano mette giù le armi sì. È un casino. Allora il trofeo Bernabeu ha fatto giocare 21 giocatori. Tutti quelli a disposizione, meno Casillas, neanche un minuto gli ha dato. E poi ha detto sì, che Adan, il portiere riserva, aveva bisogno di giocare, vabbè, qui non c'è creduto nessuno, editoriali molto duri e così. E oggi intervista al Mondo, dice praticamente, altro dito nell'occhio, dice che Casillas non è un intoccabile, nessuno è intoccabile, via dicendo, quindi... Beh, scusa, questo è normale, no, ma nemmeno lui se vogliamo. E quindi dice, non vi stupite se ogni tanto giocherà Adan e via dicendo. E quindi forse vediamo se farà quello che solo Capello aveva avuto il coraggio, quasi, poi non l'ha avuto alla fine, di fare, che diciamo, ai tempi suoi voleva mettere Diego Lopez, l'attuale portiere del Villarreal, sì. Perché pensava, cioè, lui riteneva insieme a Tancredi, che Casillas non fosse, diciamo, così all'altezza. Bravo, soprattutto nelle palle alte. Non l'ha vista benissimo Don Fabio in quell'occasione. La storia parla chiaro. Lì aveva le sue ragioni, però aveva le sue ragioni. Comunque adesso qui di tecnico non c'è nulla, c'è solo una questione appunto del grande scisma che Casillas vorrebbe ricomporre, ma che invece che Mourinho non ha alcuna intenzione di comporre, tant'è vero che oggi rilancia di nuovo la teoria del complotto, sindrome dell'accerchiamento, il Madrid è vittima di una campagna incredibile, certo. Però sai bene che appunto far passare come squadra vittima il Real Madrid è impresa piuttosto ardua anche per Mourinho. Senti Filippo, ma le relazioni diplomatiche, l'altro giorno leggevo di Real Madrid e Barcellona che hanno interrotto le relazioni diplomatiche, sono riprese o ancora non si parla? No, ma le relazioni, voi sono andati a cena insieme, a pranzo anche, per meglio dire, prima dell'ultimo classico, quindi era, tutto questo è pre-dito nell'occhio. Però no, le relazioni sono ancora in piedi e che sono un pochino così, un po' stiracchiate, insomma, non si sono visti momenti migliori o anche relazioni migliori in generale. Anzi, il Barcellona aveva fatto, secondo me, un passo avanti dicendo non denunciamo Mourinho, insomma, dimentichiamoci di tutto. L'altro giorno Guardiola, quando i tifosi del Barça facevano i cori contro la Madrid, li ha fatti smettere, ha impedito che i suoi calciatori partecipassero anche al chi non salta di Madrid, via dicendo. Però invece da qua da qua, in senso di Madrid, visto che vivo a Madrid, e no, proseguono con insomma, continuano a lanciare altro tipo di messaggi, insomma, e quindi insomma, è più una questione del Madrid, ma anche insomma, è lo stesso Mourinho, ha delle grosse responsabilità. Lui è convinto che il Barcellona vinca perché è aiutato dagli arbitri. Certo, vabbè, insomma, certo. La libertà di pensiero, quella gliela lasciamo. E ma poi dopo, sì, non gliela leviamo, la libertà di pensiero gliela lasciamo. Magari qualche ascoltatore non è d'accordo, anzi sono certo che ascoltatore non sia d'accordo, ma la libertà di pensiero e anche di parola io penso, propendo per lasciargliela. Un'ultima cosa, le relazioni diplomatiche invece tra Mourinho e Kakà, che viene sbattuto oggi in panchina? Insomma, mi sembra che lì Mourinho con grande onestà ha detto sì, dice, mi fa piacere vederlo, insomma, e lo considera un panchinaro, e forse si dimentica che il ragazzo guadagna 9 milioni netti all'anno, quindi non so se nello spogliatoio ci sono tanti altri panchinari di questo livello, anche nel mondo in generale dello sport, e Kakà per ora dice che è contento così. Poi non lo so, ha ancora 4 anni di contratto, cioè questo più 3, quindi magari ne fa passare ancora uno e poi ci penserà, non lo so, insomma, la situazione è complicata, perché è complicata a livello appunto per i rapporti, per lo spogliatoio, per lo stesso Kakà, però qui cioè, o lo salva il Milan o nessun altro, secondo me. E allora mi sa nessun altro, almeno per quest'anno. Mi sa nessun altro, o Leonardo. Ma sì, Leonardo però ha anche speso quel quanto, pochi milioni per Pastore, no? Non ha problemi, perché va lì con un bel sorriso che dagli arabi. Sì, Colte, certo, non è che hai 50 per Kakà, magari glieli danno. Sì, però insomma, voglio dire, sì, questa è un'opzione, ne sono state menzionate altre, secondo me nessuna praticabile. Forse se Galliani si decide, sta lì seduto in riva al fiume, vede passare il cadavere di Florentino e gli dà una mano, forse a risolvere un problema, però non lo so, è molto complesso. E solo che qui, anche l'altro giorno, comunque nel trofeo Bernabeu, Kakà era titolare, insomma, non è che abbia rivoluzionato la partita, sì. Forse eppure si è allenato tutti i mesi, cioè tutte, diciamo, è depresso, ragazzo, non è felice, non può essere felice. Filippo, grazie, e quindi vediamo. Grazie a voi, buon lavoro, grazie a Filippo Maria Ricci, l'uomo più evocato di questa domenica. Mi ha raggiunto Giorgio Rondelli, ciao Giorgio. Buongiorno a te. E allora adesso non mi resta che chiederti una lettura di questa cosa incredibile che è successa oggi ai mondiali di atletica. Cercate lacrime, l'ho detto prima, non ne vedrete sul mio viso, dice Usain Bolt. Io ti domando, com'è possibile che un campione, che è una fuoriclasse assoluto della sua levatura, faccia un errore così colossale? Ma io credo che lui volesse scalpitasse per dare una grande dimostrazione di volesse fare il risultato. Qualcuno ha detto, ma fai a furia di fare un po' il cinema prima di partire ha perso la concentrazione. Io dico il contrario, era fin troppo concentrato, al di là poi di fare il solito show, la solita mimica facciale e quant'altro, e da quello che aveva fatto in batteria e in semifinale c'erano le premesse, insomma, vedi quando un atleta è in forma. Adesso poi magari verrò smentito dai 200 metri, e credo che lui volesse proprio fare questo grande risultato così, insomma, per valorizzare i campionati del mondo e quant'altro, e purtroppo la voglia di uscire veloce dai blocchi. Qualcuno dice aveva paura di Blake, che poi ha vinto il campionato del mondo, un giovane, grande talento, suo compagno di allenamento, ma credo che comunque un Bolt appena così in minimo di condizione, 4-5 centesimi in meno almeno di Blake l'avrebbe fatto. Quindi io penso questo, la voglia di fare molto molto bene l'ha portato a perdere quella freddezza che bisogna avere sui blocchi di partenza, soprattutto quando dal 2003 in avanti è in vigore questa regola che alla prima falsa partenza si è squalificato. Sì, la IAF si è quasi scusata dell'applicazione di questa regola, ma c'è poco da scusarsi perché non è un caso in discussione, nel senso che no, infatti non è che no, ma c'è stata questa nota, lo saprei, della IAF. È importante ricordare che la credibilità di uno sport dipende dalle sue regole e dal fatto che devono essere applicate con costanza e alla stessa maniera per tutti gli atleti. Chi l'aveva mai messo in discussione questo? Assolutamente sì, sarebbe gravissimo che viene eliminato magari il corridore delle Isole Vergini che fa 11 netti perché fa la partenza e Bolt perché fa 9,58 e fa 9,58 no. Poi si può discutere se è giusta, non è giusta questa regola, ma questo poi ci porta un altro discorso. Nel 2003 uscirono, credo di ricordare, perché io ero là con Antonio Costanzo a Parigi quando fu applicata la regola, nella stessa batteria credo che uscissero Asafa Powell e John Drummond. Asafa Powell accettò subito il verdetto, Drummond si cominciò a sedersi vicino ai blocchi di partenza e non c'era verso di farlo di spostarlo, non c'era bisogno, dovettero portarlo fuori di forza. Certo, è stata una finale al di là di questo evento. Giorgio, ne parliamo tra un attimo, subito dopo il traffico. Dunque, stiamo parlando della sorpresa, dello shock di oggi ai mondiali di atletica di Daegu con questa falsa partenza che ha messo fuori dai giochi Usain Bolt. Ma ricordiamo, risentiamo la telecronaca di quello che è successo. Enorme, Usain Bolt. Ai campionati mondiali di Daegu, la tragedia sul volto di Usain Bolt, che ha un sorriso ancora stampato in faccia, ma lo sa già che cosa ha fatto. Incredibile, Usain Bolt, falsa partenza, eliminato il suo allenatore, sta per cadere dalla sedia. E poi la finale è andata così. Partita, questa volta la partenza è valida, guardate come spinge Young Blake, attenzione King Collins, Ian Blake, campione del mondo, 9,93, la Giamaica, 1,04 di vento contrario, Ian Blake si va a prendere l'oro dello sprint clamoroso a Daegu, ci ha creduto fino in fondo, Ian Blake è stato più tranquillo. Giorgio, prima di parlare con gli ascoltatori, una tua valutazione su questa finale decapitata, questa finale mozzata. Ma io avevo fatto un pronostico prima della finale, è chiaro che Bolt aveva il 100% dei pronostici. Pensavo, sicuramente aveva fatto Blake secondo perché l'aveva visto molto bene, compagno di allenamento, si dice l'allenatore è svenuto, ma fino a un certo punto, perché comunque Glenn Mills è pure l'allenatore di Joan Blake, quindi comunque lui il mondiale lo festeggia. Credo che sia arrivato invece proprio un po' spossato dal punto di vista nervoso, sicuramente Christophe Lemaitre, che poi oltretutto ha avuto anche la sfortuna di essere in ottava corsia, quindi fuori dal centro della mischia, dove al di là di Blake, tanto di cappello a questo 35enne King Collins, campione mondiale nel 2003. Credo che se ci fosse un atleta su cui forse si può puntare che non sia doppato, visto che ha un fisico più da mezzofondista che da velocista, King Collins, che ha esibito un'uscita dai blocchi straordinaria. Poi gli manca la potenza, nella fase lanciata non è più il King Collins migliore, però tanto di cappello. E come un altro circolino rosso per l'altro francesino che è andato in finale, l'altro francesino Vicol è un atleta che è junior, quindi in finale aveva un 21enne e un 19enne la Francia, quindi bravi. E Blake degno campione del mondo nella tradizione giamaicano, della Giamaica, quindi ferita dolorosa, ma un po' meno perché comunque ha vinto un giamaicano. Claudio a Parma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo approfittare del fatto che c'era un derby lì, allora mi butto sull'atletica. Sì. No, io non l'ho vista la gara dei 100, però da quello che ha detto lei sembrava quasi che Bolt l'avesse fatto apposta di eliminarsi. Ma apposta mi sembra tanto. Anche se cioè, saranno in giro un sacco di maliziosi, no? Che diranno: bah, se magari aveva paura di incorrere in qualcosa di pericoloso, è quello che voleva dire lei? Voleva evitare l'antidoping? No, pensavo più a un infortunio e poi volevo chiedere se percepisce comunque dei soldi da questa prestazione. La quantità l'ho perso poco, l'aveva già detto un'altra volta. Sì. E se questo ritiro influisce sulle sue su questo emolumento. No, ma lui no, ci mettiamo a discutere no. Anche sindacalmente. Credo, se corri ti pago, se un corri no, un beh, te chiaramente pago. Ci sono dei premi in denaro della IAV, ma credo che confronto a quello che guadagna lui siano briciole, un po' come il discorso che sembrerebbe un paragone improprio con la Sharapova, anche quando era talmente personaggio, no, lui è personaggio anche con i risultati. Io credo che farà, mi sbilancio, che farà comunque un grande 200 metri. Ecco, c'è da dire che nei campionati del mondo questa regola, Carlo, è applicata veramente alla lettera, cioè è applicata in maniera sistematica, scientifica, no? Mentre se fosse stato un meeting, abbiamo visto più volte commentando dei meeting che lo starter la partenza falsa se la prende lui, perché è un organizzatore di Zurigo che investe 250.000 euro così abbiamo visto in alcuni casi facevano di tutte le erbe un fascio, vabbè, poi, dava un cartellino giallo starter, a tutti così. Certo che voglio dire è stata una partenza falsa, ma anche clamorosamente falsa. È questo che mi ha sorpreso in maniera assoluta, cioè sì. Che uno sprinter della levatura di boccia, quindi uno che è abituato a mettersi sui blocchi di partenza e dominare una finale olimpica, mi sorprende che io faccia un errore così grande, così clamoroso. La mia considerazione è che, ripeto, veniva da un anno un po' sabbatico, aveva questa voglia che sembrava si è vista questi flash nelle batterie in semifinale di fare il grande tempo. Poi di solito magari lo sprinter così taglia un po' i panni addosso allo starter. Di solito se tu segui la ritmica dei comandi, di solito si conta magari 1, 2, 3, al massimo al 4 spara, quindi è solo che non c'è appello, ecco, a questa regola. Così anche credo nel nuoto. Giorgio, e per il resto questa giornata che cosa ha detto? Voglio dire, io ho fatto un pezzo oggi sul Corriere che parlava di Mofarà, che a mio avviso era il favorito. Lui ha detto: io sono pronto a fare l'ultimo giro in 53 secondi, in maniera un po' sfrontata. Bene, lui ha fatto l'ultimo giro in 53:30, però ha trovato un etiope di grande talento come Gelain, che addirittura ha fatto 52:80, mentre l'imperatore Bekele si era fermato dopo 4 chilometri. È come dire: favorito vince quando ha tagliato il traguardo, prima no. Questo ragazzo era di grandissimo talento, perché poi anch'io che lo conoscevo fino a un certo punto, andando a vedere, è il primatista mondiale a livello dei 17 anni sui 10.000 metri. Poi ha fatto sempre cose normali, niente di che. Il suo record rimane ancora quello di 27.02 del 2006. Da poco più di un anno è andato a vivere in Giappone con un club che gli ha fornito parecchi yen per andare lì. Si è potuto allenare e ci è arrivato tranquillo, senza nessuna pressione, perché è l'unico che ha fatto l'undicesimo tempo mondiale, ma l'ha fatto in una gara solitaria in Giappone a metà di giugno. Quindi credo che Mofarà ha fatto quello che doveva fare. Forse era talmente sicuro che ha esagerato nei primi 200 dell'ultimo giro, ma insomma, Dio mio, anch'io avrei pensato: c'è fuori Bekele, certo, i tre keniani sono staccati, Merga l'ho battuto sempre, beh, quest'altro qua che c'è con me che cosa può pensare? Al massimo può arrivare terzo. Faccio una volata come con quelle sempre, ho stracciato tutti, e invece questo qui è venuto a prendermi, è nata una nuova stella. Vediamo. Ma se non si disperde le qualità, sai, se uno ha grande talento prima o poi esplode oppure ritorna ad esplodere. Questo qui di grande talento l'aveva a 16-17 anni, è tornato fuori oggi, così, come dire, è morto l'imperatore, ma il palazzo morto l'imperatore. No, è morto l'imperatore Bekele, non lo so, sai, 2 anni oggi, cioè era veramente poca cosa, cioè, no, è l'ultima si è ritirato, ma non è mai stato in gara, era in coda al gruppo. è nato un nuovo imperatore, probabilmente sì, e quindi diciamo che viva il Papa nuovo, viva l'imperatore nuovo, e quindi la guardia del Negus non ha salvato l'imperatore in carica, però ha salvato il palazzo, e credo che sia, e poi ha continuato la tradizione, quinta vittoria o nona vittoria etiope nelle ultime 10 edizioni, sui 10.000 metri maschili nelle ultime 10 edizioni, quindi certo. Importante. Poi parliamo anche della giornata azzurra, naturalmente, che non è andata benissimo. Luigi da Catania, buongiorno. Sì, buonasera Carlo, buonasera al suo ospite. Guardavo Arsenal Manchester, vedevo come lei la pochezza. 5-1. La pochezza dei Gunners. La manita. Little hand. Sì, ma amarezza. E in questo senso mi dissocio dal coro di quanti hanno applaudito l'Udinese, perché io dico che l'Udinese in realtà ha scientemente perso una grossa occasione. Non soltanto l'Udinese, ma il calcio italiano. Scientemente vuol dire che ha fatto apposta? Scientemente, no, dico con la consapevolezza che privandosi di personaggi del calibro di Sanchez e Hill, ovviamente indebolisce la squadra. Se a ciò aggiungi che non acquisti praticamente nessuno, se non dei ragazzi che avranno il loro tempo necessario per crescere e diventare futuri campioni. Io dico che questo ha finito e finisce col danneggiare anche il nostro calcio, perché dico, partendo già siamo penalizzati nel ranking UEFA, aggiungiamo che partiamo con 3 squadre, e credo che per i prossimi anni sia davvero dura scalare nuovamente le posizioni. Ma guardi, però Luigi, se vogliamo dare la colpa all'Udinese che è uscita con l'Arsenal, possiamo anche farlo, anche perché è stata una grande occasione sprecata. Non c'è la prova. Non c'è la controprova, ovviamente, del fatto che con Sanchez e Hillary il turno sarebbe stato passato. Anche così l'Udinese ha avuto la possibilità di passare alla fase a gironi, e lei lo sa benissimo perché ha giocato una buona partita in Inghilterra, è tornata, aveva la possibilità di ribaltare il risultato, aveva messo sui binari giusti la partita con quel gol di Natale, poi ha preso il gol di Van Persie, ha sbagliato il rigore con Di Natale e lì è finita la gara. Se vogliamo dare delle colpe all'Udinese, facciamolo pure. Io però continuo a pensare che se ragioniamo in termini di ranking UEFA, maggiori responsabilità ce li abbiano quelli, Palermo e Roma, che sono usciti da un'Europa League nella quale, scommetto con voi quanto volete, le nostre quest'anno faranno di nuovo da comparse, Udinese compreso. Ma poi Carlo, se si parla di fair play finanziario, di gestire bene la cosa, non si vede perché deve essere colpevole Pozzo, perché fa cassa con dichiaratamente con Sanchez è quella, e Zamparini si libera di Pastore, ancora addirittura l'Inter che va via e poi va fuori con gli svizzeri del Tunna o la Roma con lo Slavia Praga, e quindi è per forza è condannato a fare quella politica. Anzi, diciamo che la bravura dell'Udinese è quella sempre di trovare, con tantissimi osservatori in giro per il mondo, dei giocatori. È chiaro che non può mettere su una rosa di un certo tipo, perché poi il bilancio alla fine è quello. Certo, con Sanchez probabilmente avrebbe avuto un 15-20% di... Però le occasioni, come hai detto tu... La possibilità di passare questo turno, che l'Arsenal quest'anno sia pochissima cosa, è indubbio, però la possibilità dell'Udinese di passare questo turno ce l'ha avuta, non è riuscita ad acciuffarla. Però non mi sembra caso di inchiodarla alla croce. No. Piuttosto fai bene a ricordare come il Palermo avesse di fronte gli svizzeri del Thun, che saranno anche un po' più deboli dell'Arsenal depressissimo di questi tempi, o lo Slovan Bratislava che ha fatto fuori la Rometta. Quindi... E già si comincia, dopo che l'Inter ha perso col Milan la Supercoppa e anche l'ultima partita amichevole col Chievo, già hanno dimostrato che insomma bisogna un pochettino... Non sono da Champions League per il momento. No, insomma, chiaro che c'è un allenatore nuovo, si deve lavorare, però... Si avvia all'inizio di un campionato con minori certezze rispetto al passato. Passametro corre 6-1 tra il Manchester United e l'Arsenal. Dopo ha segnato il quarto gol, lo ha fatto Rooney. Dopo Welbeck e Young, ha segnato Rooney. Poi il gol di Walcott in chiusura del primo tempo. Ne ha ripresa Rooney, Nani e Park. 6-1. E il tassametro continua a correre, perché siamo al 72esimo di gioco. Dunque, Giorgio Giornali, parlavamo della domenica mondiale degli azzurri a Daegu. E sinceramente, un po' di magone ci è venuto. No, per fortuna ci ha salvato il gong dell'interruzione. Ma se mai hai fatto un assist, se dovessimo dargli una maledizione. detta domenica, si potrebbe dire, e chi si salva solo Marta Milani, e qui non si poteva chiedere di andare in finale, che nei 400, nella semifinale dei 400 ha fatto 51,87, ha fatto di un centesimo il suo record correndo, dando il massimo. Le cose erano già cominciate male alle 2 di notte, quando ci sono stati 20 km di marcia. Rubino era andato addirittura all'attacco, la gara era chiaramente tattica, e così era molto teso. Poi lui l'ha confessato, quindi non marciava tecnicamente bene, due ammonizioni, ha dovuto rallentare, e a quel punto lì poi è stato raggiunto dal gruppo e addirittura poi ha subito la terza squalifica. Sono andati all'attacco poi Borkin, che era il favorito, il russo, che poi ha vinto tranquillamente, poi in rimonta l'altro russo Kanaikin e un colombiano di cui io sinceramente mi sfugge il nome. È arrivato molto affaticato Svazzera al nono posto, ha preso circa 2 minuti di distacco dal primo. Brutalmente ce lo scordiamo l'atleta che vinse l'oro. Ecco, guarda, sai, poi dopo non voglio fare quello che suona le campane a morto. A me quello che mi preoccupa, sentendo poi le loro dichiarazioni dopo, è tutta questa serenità. Dice: adesso sono più sereno, sono contento, era bello essere qui. Beh, però voglio dire, ma non solo lui, anche altri erano tutti contenti. La stessa Chiara Rosi eliminata nel peso, adesso bene, qui un'esperienza. Non abita più qui. No, anche perché poi insomma parliamo di uno che è campione olimpico, esatto. Parliamo di altri atleti, esatto, che in passato erano arrivati alle finali. La stessa cosa ha detto Meucci, dodicesimo sui 5.000 in 28,50. È vero che è una gara tattica, è vero che c'erano gli africani, ma fino a un mese fa ha corso in 27,44. E allora invece dice una gara strappi, faccio fatica ad assorbirla. Sì, però rispetto al passato, se ci arrivi invece di fare altre gare in pista più corte, ci arrivi facendo una gara su strada in gaggio, forse non è il miglior sistema dal punto di vista tecnico per arrivare qui. Quindi mi sembra che non c'è una grande condizione, c'è un po' di fatalismo positivo, dicendo vabbè, questa è una bella tappa di passaggio, l'importante e sarà l'anno prossimo Londra, ricordandoci che poi 2 anni fa non abbiamo preso neanche una medaglia. Esatto, quindi che ci fossimo rassegnati a questa mediocrità, e quindi la battuta dei perdenti è: comunque è bello essere qui. Sì. Se, allora ditelo. Ma sì, sono d'accordo con te. Adesso poi sono appena cominciati, però poi sono andati fuori anche l'anno Giordano Bruno nel salto con l'asta, abbatte sui 110 ostacoli, qualificazioni difficili, però insomma alla fine, come abbiamo detto prima, una maledetta domenica, per cui 5-6 atleti, ne abbiamo una trentina, vanno tutti un po' fuori. In fondo dalla marcia poi vista bene ai raggi X, poter lottare per una medaglia non era così, no, ma poi così fuori, insomma, dalla portata. La marcia è rimasta anche storicamente l'ultimo baluardo. Come no? Per gli atleti azzurri, no? Se anche lì facciamo, era il nostro territorio di caccia, ma preferito, sì, che poi è diventato anche l'unico a un certo punto, però almeno in quella disciplina eravamo minimamente competitivi. Se anche in quella disciplina non siamo più competitivi, certi 100 metri le metro non ce l'abbiamo, non potremo mai più competere, e dunque diventa difficile schiudare quello zero nella casella delle medaglie. Adesso domani giochiamo una delle nostre carte relative, però insomma Vizzoni nel martello, la quarta misura mondiale stagionale, ha passato così, direi, senza troppi affanni la qualificazione, e cominciamo a giocarci questa carta. Poi credo che gareggi anche le qualificazioni la Lamantia nel triplo, un'altra atleta che può far bene. È chiaro che poi per fare un'impresa lei dovrebbe fare il suo record, e le 3-4 migliori dovrebbero saltare un po' di meno sulla carta, questa così. Quindi siamo sempre a dover fare una piccola impresa e a sperare che le altre non vadano tanto bene, per cui effettivamente a tutt'oggi la carta più sicura rimane quella quella di Martino, che può lottare se si esprime al meglio per ciascuna delle 3 medaglie in palio nel salto in alto femminile. Poi parliamo anche di Pistorius, che ha detto: sono in semifinale, ora spero di riscrivere la storia. Ma prima a proposito di gente che corre tanto, c'è il mio amico Federico Taddia, che nel corso dell'estate con il suo Mine Vaganti ha seguito questo lungo viaggio che si è appena concluso di Alex Bellini. che ha corso, ha esplorato gli Stati Uniti da Los Angeles, arrivando in una New York alle prese con qualche problema meteorologico. 70 km al giorno, dico bene? Glielo chiediamo. Alex, ciao! Ciao, buonasera a tutti. Domanda a Giorgio Rondelli, che è un grande allenatore di atletica, 70 km al giorno? Se la media era un po' più alta, era intorno ai 75, abbiamo raggiunto anche punte massime di 96 Complimenti. Km al giorno. Cos'hai trovato lungo questa strada degli Stati Uniti, attraversando gli Stati Uniti a piedi? Fin troppo abbiamo facile richiamare Forrest Gump, ma insomma, voglio sapere cosa hai trovato. Cosa hai trovato tu? Sì, abbiamo trovato tanto deserto, abbiamo trovato tanto caldo, tanto umido, che ha messo veramente in grossa difficoltà tutti quanti, tutti i concorrenti di questa edizione, che contava 16 persone alla partenza. Abbiamo trovato tante montagne inaspettatamente, perché sì, ci eravamo un po' informati, ma punte massime di 2800 metri nel New Mexico, questi io non me li aspettavo. E poi tanta pianura nell'Oklahoma e poi ancora colline nel Missouri. Insomma, ogni stato che abbiamo attraversato sembrava di entrare in un mondo differente. Abbiamo incontrato tanta gente e abbiamo sicuramente visto degli Stati Uniti inediti, perché devo dire che abbiamo attraversato solo 3 grandi città. Per il resto abbiamo sempre pernottato in motel di piccolissimi paesi sperduti, dimenticati da tutti. Ecco, sicuramente il lato B degli Stati Uniti ci ha regalato momenti belli, momenti più difficili. Oggi siamo qui a New York, dove tutto è sempre stato normale, certo, insomma, un acquazzone l'ha fatto, e anche molto, molto grosso, un po' di vento si è alzato adesso, ma nulla veramente di cui preoccuparsi. Irene non fa così paura? No, però guarda, io che ho attraversato 2 oceani posso garantire che quando le forze della natura si mettono e si concentrano tutte in un unico posto, possono diventare veramente qualcosa di mortale, molto pericoloso. Quindi non c'è mai da scherzare con la natura. Forse è stato un po' sovrastimato il problema, i pericoli che avremmo potuto incontrare, tant'è che fino alla fine non eravamo sicuri di poter accedere a New York, perché poi i ponti sarebbero nell'ipotesi di un allagamento sarebbero stati chiusi. Invece ci siamo arrivati con la pioggia, io ho rivisto mia figlia, che erano 3 mesi che non vedevo, che ho tanto sentito la mancanza, quindi anche un arrivo molto emozionante, e oggi è già il momento. Guarda, in questo momento sono con le gambe proprio vuote, proprio del post sport, è come se ieri avessi fatto la notte di Capodanno e oggi mi trovassi a vagabondare un po' come uno zombie per le strade. Però è già tempo di fare i primi bilanci e di guardare avanti e sperare, guardare il prossimo obiettivo. Sì, chissà quale può essere, adesso te lo chiedo. Invece questo signore Giorgio ha fatto anche attraversata a Remi di 2 decenni. A Remi, in solitaria, da Genova a Fortaleza e da Lima all'Australia, Perù all'Australia. Ma queste imprese, anche da detto i lavori, sia pure di mezzo fondo, così mi stimano tutta una serie di domande, cioè come si recupera dal punto di vista muscolare, come si reintegra, a che ore del giorno correvano, perché poi penso che abbiano attraversato anche deserti, quindi con temperature, quanto tempo ci mettevano lì circa a fare 75-80 km, ecco, tutta una serie di piccole domande. Alex, dovremmo avere un paio di giorni per rispondere a tutte queste domande, però ecco, proprio per evitare i momenti, sì, poi non siamo riusciti a evitarli, i momenti più caldi, perché correvamo, ovviamente ognuno ha la propria andatura, però si partiva alle 5 della mattina cercando di prendere vantaggio di fare più chilometri possibile con temperature accettabili. Però arrivava sempre l'ondata di caldo estremo tra le 4 e le 5 del pomeriggio, che trovava sempre e comunque le persone sulla strada di corsa, con questo asfalto nero che sembrava facesse più caldo dal sotto che dal sopra, e si reintegra facendo molta attenzione ai liquidi che uno perde durante la corsa. Io avevo un regime alimentare e di integrazione di liquidi molto rigoroso, io bevevo circa 1,5 litri di acqua al giorno, allora, proprio per evitare disidratazione, che poi avrebbe sicuramente compromesso la mia salute e la mia prestazione. Però posso dire una cosa, un'ultima, certo, cosa: correre è stata la cosa più semplice, come sempre, perché poi sono le altre difficoltà, la stanchezza, la difficoltà ad alzarsi dal letto giorno dopo giorno, perché sì, è vero che eravamo preparati, però arriva un certo punto che il corpo inizia a cedere, allora devi sostenerlo, sorreggerlo con la testa, con le motivazioni, con quella cosa che ti spinge ad andare oltre e a tenere duro e stringere i denti. È stata una bellissima avventura. Alex, nel mirino adesso cos'hai? E poi ti lascio andare a riposare. Cioè, qual è il tuo prossimo pensiero? Il tuo oggi come è difficile. Prima cosa, non vedo l'ora di riposare. Non vedo l'ora di tornarmene a casa. Mia moglie ha partorito da una settimana. Io ero ancora in mezzo alle strade che mia moglie faceva un'altra avventura. Quindi in questo momento non vedo nient'altro che l'uscio di casa mia, l'ingresso di casa mia per poter riabbracciare la mia famiglia. Poi io sono una persona che sta bene con se stessa, con gli ambienti isolati e non con organizzazioni, corse e altri concorrenti. Credo che la mia prossima avventura, il mio prossimo viaggio sarà nuovamente in solitaria a cercare qualche altra terra, questa volta terra e non più acqua, poco battuta, poco battuta. Bocca al lupo Alex, grazie. Grazie mille a voi, grazie, buona serata. E complimenti, io non vado. Qualcuno mi dà del pessimista cosmico, pensa un po' Giorgio, io che sono ottimista di natura, solo perché dico che l'Italia non vincerà mai più un tubazzo di niente per lungo tempo, almeno nell'atletica, beh, spero dimostri il contrario. No, beh, abbiamo visto come il discorso di Pemi ha fatto prima nei 10.000, non si può dire, perché poi le sorprese qualcuno... Semplicemente che... mi dà fastidio questa logica perdente che viene inscenata, sono contento di essere qui, a me non piace sportivamente, non a prescindere dai colori azzurri. Non mi piacciono quelli che dicono, che poi vanno su. È comunque un'occasione persa, vuol dire che non sei riuscito a calibrare la preparazione. Poi è chiaro che nessuno chiede di vincere se uno può andare in finale, però se uno può andare in finale e non ci arriva, se uno, ricordiamoci che comunque l'anno scorso è vero che ha avuto qualche problema invernale, però Alex Vazer l'anno scorso ai campionati europei sui 20 era pure arrivato secondo e aveva vinto ancora questo Borkin. Quindi se dobbiamo essere contenti per un nono posto da parte di un campione olimpico, fate pure. Se poi insomma, al minimo comune denominatore c'è un grande atleta che stava per fermarsi perché non sopportava più il peso psicologico di recitare ruoli da protagonista, allora è un altro discorso, allora ci può andare bene anche il nono posto. Però se guardiamo alla macchina da guerra, al cyborg indistruttibile di Pechino 2008, non possiamo essere contenti. A dir poco imbarazzante Manchester United Arsenal 7-2, non mi sembra neanche una credibile partita di pallone. Terzo gol per Rooney, questa volta su rigore, prima ha segnato Van Persie. Siamo all'87esimo, ma solo per la cronaca mi interessa di più Pistorius. Devo dirti che mi ha sorpreso in positivo, ha corso bene, ha passato bene il turno, credo che abbia corso in 45-35, adesso centesimo più, centesimo di meno, credo facendo anche un tempo che gli apre già con il risultato di quest'anno, quel 45-07 più questo tempo gli apre già le porte per Londra. Aprirà anche la porta delle polemiche? Ma sai, quello credo che sia è un caso che ha sempre fatto discutere fin dall'inizio. Io penso che dobbiamo tenerci le soprattutto le cose buone, cioè le cose buone di un ragazzo che ha avuto molta sfortuna della vita, che ha reagito ottenendo dei risultati straordinari, tanto da arrivare a correre e ad essere competitivo con i normodotati. Poi sul discorso lasciamo poi ai biomeccanici, agli altri, tutti questi discorsi su queste protesi straordinarie che comunque lo aiutano, ma se lui non avesse un motore, lui ha fatto anche dei lavori specifici per adattare la muscolatura all'uso col suo allenatore, all'uso di queste protesi. Poi se queste sono sempre più sofisticate, lo aiutano sempre di più. Insomma, mi sento di esprimere un giudizio negativo in assoluto. Sì, resta fatto, come tu hai spiegato molte volte, che rispetto agli altri concorrenti non ha problemi di acido lattico e questo fa una certa differenza. Sì, lui credo che lui poi ha invitato anche molti altri diversamente abili a impegnarsi di più negli allenamenti, a cercare di seguire la sua strada. Non facile, perché lui poi è diventato un personaggio universale, Carlo, e può avere anche alle spalle dei budget, certo, importanti dal punto di vista economico, che gli permettono di fare l'atleta a tempo pieno, di essere sponsorizzato e di comprare anche queste protesi particolari che si chiamano Cetas, che hanno avuto varie generazioni negli ultimi anni. Non so quale lui usi, quella che gli l'avevano testata e dato l'ok la IAF era datata 2008, poi non so. Credo qualche... che adesso sicuramente verrà controllato. Sono protesi che costano molto, da 4.500 euro in su, e forse non tutti i diversamente abili, anzi sicuramente non se lo possono permettere, non hanno queste disponibilità, e quindi diciamo è un fenomeno complesso. Così. Ma riuscirà secondo te a scrivere la storia dei 400 metri come lui ha detto? Beh, in che senso scrivere la storia? Può essere competitivo per la vittoria finale? No, io penso di no. Penso che lui già a correre intorno ai 45 netti. Credo che adesso il suo focus sia Carlo arrivare in finale. Quello, e lì è borderline, potrebbe anche farcela. Credo che però poi i vari pezzi da 90, la Sean Merritt e gli altri abbiano ancora un margine di almeno mezzo secondo. Sono atleti che possono correre vicino fra 44 secondi netti e 44,50. Se riuscisse a essere anche competitivo così, io mi immagino ancora di più le polemiche che verranno appunto fuori. Io avevo scritto un pezzo che mi piacerebbe testarlo su, non sugli 800, perché poi subentrano altre qualità. Mm-hmm. Vedere se riuscisse a tentare il record mondiale dei 600 metri, perché nella fase lanciata e 400 lui è molto avvantaggiato nella seconda parte, però è chiaramente svantaggiato nell'uscita dei blocchi nella prima parte, anche un po' in curva, e poi molto avvantaggiato nella fase cruciale dove l'atleta è faticato, subentra l'intervento dell'acido lattico che blocca le contrazioni muscolari. Su un 600 lanciato chissà, potrebbe essere, no, ho detto potrebbe essere così, fonte di discussione tecnica, niente di più, sì. Un divertissement per dire, ecco, hai visto quanto guadagna poi dai 300 ai 600 metri. Discussione accademica. Accademica, che però sì, potrebbe avere una valenza per vedere fino a dove si può spingere. Certo. Come ben sai, caro Giorgio, mentre lo United segna l'ottavo, 10 gol in questa orribile partita di pallone. Spero per l'Arsenal che non arrivino a 10 prima di andare via. Guarda, siamo al 91esimo e 17 secondi. 3 minuti di recupero, magari riescono a fermarli. Ma tu pensi che anche la squadra abbia abbandonato Wenger a questo punto? Bah, sai, diventa difficile credere sia un Arsenal competitivo. Sul mercato non sono praticamente intervenuti. Penso che ogni storia abbia la sua fine fisiologica, e forse è finita anche l'epoca di Wenger all'Arsenal. Come ben sai però, Giorgio, a tenerci compagnia in attesa che inizi il campionato italiano, c'è un mare di eventi in questa fine estate, dai mondiali di atletica di cui stiamo con grande piacere parlando, agli europei di basket che stanno per cominciare, il 31 Italia in campo già per una partita decisiva con la Serbia, e poi c'è la spedizione azzurra laggiù nella patria degli All Blacks ad inseguire un sogno. Parli del paese che io dal punto di vista atletico come allenatore adoro, perché quello che mi hanno insegnato di più sono stati proprio i grandi atleti neozelandesi, Walker, Dixon, a metà degli anni 70 erano poi i figlioci di quel grande Arthur Lydiard, che era il padre, che poi è stato l'uomo che ha anche, diciamo, rilanciato Viren e compagnia bella. Certo. Quindi ho sempre amato quella terra, ci sono stato a Auckland per un campionato del mondo, e siccome quelle famose magliette gli All Black, quelli, esatto, e anche nell'atletica cercavamo di averle, e poi sempre come gioco ho mirato sicuramente gli All Blacks del rugby. E di quello stiamo parlando con Gianluca Barca, direttore di All Rugby e voce molto nota. Ciao Gianluca. Buonasera a tutti, ciao. No, stavamo insomma frignando un po' sulle miserie dell'Italia dell'atletica, speriamo di piangere un po' meno con quella del rugby, ma mi sembra che l'aria che ci accompagna in Nuova Zelanda non sia delle migliori. Ma sai, io credo che al di là di ogni considerazione tutto si ridurrà poi a una partita, quella del 2 di ottobre contro l'Irlanda ad Dunedin, perché il calendario e la storia ci insegnano che tutto poi si riduce a quel match. Noi potremo esordire contro l'Australia l'11 settembre con una sconfitta non importa quanto pesante, perché in passato ne abbiamo subite anche di pesantissime contro gli All Blacks, e queste non hanno precluso neanche 4 anni fa il fatto che poi ci giocassimo tutto in una partita decisiva finale contro la Scozia a Saint-Étienne. E secondo me, naturalmente questa è la parentesi obbligatoria, se batteremo la Russia e gli Stati Uniti, che sulla carta ci sono molto inferiori, secondo me anche quest'anno dovrebbe andare così. Non importa come andrà l'esordio con gli Wallabies, non importa come vinceremo con gli Stati Uniti e la Russia, purché si vinca, ma se non battiamo Stati Uniti e Russia è inutile che ne parliamo. Tutto si deciderà in quell'ultima partita, fra un mese, ad Anide, in un posto dove piove quasi sempre, dove quindi anche le condizioni atmosferiche potrebbero essere decisive. Insomma, una partita difficile da prevedere, da pronosticare. E ci andiamo, questa è un po' la mia idea. No, Gianluca, ci andiamo con, sempre con grandi dubbi sulla cerniera centrale, no? sui numeri 9-10 che sono ormai diventati una croce storica, e ci andiamo anche con un allenatore a fine mandato in fondo, e questo sì, può essere un altro rischio. Tutto questo, Carlo, fa parte di quello che è stato, cioè noi abbiamo un allenatore a fine mandato, ma che proprio per questo potrebbe dare particolari motivazioni alla squadra, è uno che vuole andarsene con una, lasciando una nota positiva, vuol far vedere che è stato un errore mandarlo via, quindi da questo punto di vista io non mi preoccupo più di tanto, è stata una scelta ormai metabolizzata sia da lui che dal gruppo. Sappiamo di non avere un Diego Dominguez, perché sono più di 8-9 anni che lo cerchiamo e non l'abbiamo trovato. Nonostante tutto questo, nonostante siamo grosso modo nelle stesse condizioni di 4 anni fa, io dico che poi alla fine si ridurrà tutto al match di quel giorno, 2 ottobre, e che lì potrebbe essere un refolo, un colpo di vento, una pozzanghera a decidere la partita. E tutto sommato, per noi che ce la giochiamo con l'Irlanda, l'Irlanda che 2 anni fa nel Sei Nazioni ha fatto il grande slam, l'Irlanda che ha una storia, cioè, tutto sommato alla fine, voglio dire, ci sta, e per noi va bene così. Sì, sì, giocarsi tutti in una partita sola può essere un vantaggio perché è più debole, è inutile girarci intorno. Giorgio? Ma mi permetto una domanda da sportivo, magari che ha seguito a volte negli ultimi anni c'è stato grande entusiasmo intorno alla nazionale, ci sono visti in alcuni momenti, Carlo, anche dei notevoli passi in avanti, però al momento che sembrava consolidarsi una nuova dimensione tecnica e poi dei passi indietro, da cosa di peso questo, Luca? Devo rispondere io? Sì, sì, beh, sì, sì, anche perché sennò io ho avuto modo di litigare con gli ascoltatori nel corso dell'ultimo Sei Nazioni, quindi lascio la palla a Gianluca. Io temo che questo dipenda dal fatto che noi costruiamo senza radici profonde, e allora anche i miglioramenti sono sempre molto effimeri, durano poco perché l'albero non è solido, è un po' come essersi affidati, parlo di uno sport diverso, con altra storia, però come parlare dello sci di Alberto Tomba, poi non c'è Alberto Tomba e fatichi a trovarne altrettanti. Qui parliamo addirittura di uno sport con 15 uomini in campo, allora il progresso momentaneo, la vittoria sulla Francia non è supportata poi nella continuità del tempo, perché i francesi, i giocatori di quel livello della loro prima squadra, ne possono schierare 200 e noi abbiamo solo quei 20, e se di quei 20 per Iella qualcuno si dovesse fare male nelle 3 partite che ci portano a quella decisiva del mondiale, il nostro livello sarebbe immediatamente ridimensionato, perché noi abbiamo 3-4 campioni, e se di quei 3-4 campioni ne mancassero un paio, allora sarebbero guai. Io credo che la differenza vera stia nei numeri. Certamente, grazie Gianluca, avremo modo di riparlarne a mondiale in corso. Grazie a voi, grazie, saluti. Grazie davvero a Gianluca Barca. Io saluto Giorgio Rondelli facendogli un dispetto e chiedendogli un pronostico sulla finale dei 100 femminili di domani. Sulla finale dice, ma io penso Veronica Campbell Brown sulla Jeter, sulla Stewart, sulla compagna, l'altra giamaicana. Giorgio, ci sentiamo ovviamente in questi giorni. Assolutamente sì. Ci sentiamo in questi giorni, così come A Tempo di Sport naturalmente prosegue ogni giorno, 7 giorni su 7, aspettiamo con calma l'inizio del campionato di calcio. Intanto abbiamo un sacco di eventi di cui parlare, dai mondiali di atletica, appunto, agli europei di basket che iniziano in settimana, ai mondiali di rugby che sono comunque dietro l'angolo. Nel prossimo weekend c'è la nazionale di calcio, vediamo cosa succede in settimana con questa trattativa che riprende domani tra Abete, da una parte Beretta e Tommasi dall'altra li incontrerà separatamente e aspettiamo con fiducia il campionato. Noi intanto siamo qui ogni weekend, ogni domenica dalle 4:30 alle 7. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Domani.